loin, plus loin du loin, plus loin du citoyen tyrannais. Non, tu contestes ça, non, tu contestes ça, loin du loin. Contestes ça, contestes ça, contestes ça, mais c'est toi, c'est toi, loin du loin. Contestes ça, contestes ça, mais c'est toi, c'est toi, loin du loin. Niente, di niente, niente che valga davvero la pena di dire. Fuori luogo. Niente, di niente, niente che valga davvero la pena di dire. Fuori luogo. Vagli d'anima, soli nelle città. Non credo ai progetti, sono loro la libertà. Dato, battezzato, istruito, ammaestrato, ferito, arrabbiato. Battezzato, istruito, ammaestrato, ferito, arrabbiato. Fuori luogo, fuori luogo.